Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, buon inizio della settimana. Abbiamo in regia la parte tecnica Filippa Oreggi, che è lì bello pronto, Laura Vanossi è in redazione, quindi i titoli del nostro sommario. Occhi e dintorni, Uazzu, Shatsu in acqua, lunedì in cucina si ricicla. Occhi, oggi non parliamo di come vedono, ma di come li vediamo noi. Una puntata quindi giocata sull'osservazione. Potete parlarci dei vostri occhi, ma anche di quelli che vi stanno guardando. Quindi se volete potete intervenire in coppia. 800 24 0024. I messaggi al 349 238 6666. Oggi a nostra disposizione due specialisti. Inizio a presentarvi il dottor Ivano Luppino, che abbiamo in linea. Buongiorno dottore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti chi ci ascolta. Dermatologo a Milano e a Catania e responsabile nazionale del Dipartimento Laser dell'ISPLAD. Qua in studio invece è tornato a trovarci a grande richiesta il dottor Antonio Scialdone, responsabile dell'unità operativa oculistica prima al Fate Bene Fratelli di Milano. Buongiorno. Bentornato. Allora, dalle sopracciglia alle borse, iniziamo a delimitare il nostro campo di osservazione e direi basta un'occhiata per capire che si tratta di un microcosmo molto vario in cui sono presenti tessuti e strutture tra loro molto diverse. Dottor Scialdone. Sì, dunque io approfitterei quasi subito della presenza del collega del dottor Luppino per fare una associazione soprattutto nelle persone giovani tra sopracciglia e bordo palpebrale. Sì. Spesso quando ci sono delle dermatiti di tipo acne o di tipo rosacea o simili, il bordo palpebrale soffre perché è spesso rosso, irritato, con quella sensazione di congiuntivite cronica. E anche sulle sopracciglia abbiamo scagliette, forforina. Sì. E su questo credo che Luppino ci possa aiutare. Certo, no? Perché noi seguiremo proprio l'anatomia del nostro occhio. Tante volte quando abbiamo problemi in questa zona non sappiamo se rivolgerci al dermatologo o se rivolgerci all'oculista. Tutte e due, dipende. Dice. Meglio. Allora, dottor Luppino. Lavoriamo in simbiosi. Bene, lavorate in... Certo, insieme. Certo, come diceva il dottor Scialdone, esiste una particolare patologia che in realtà non è una vera e propria patologia perché è una condizione di passaggio geneticamente determinata, che è la dermatite seborroica, che si manifesta appunto con la blefarite seborroica, con quelle scagliette a cui faceva riferimento il dottor Scialdone. Allora, noi però sappiamo che questa di cui ci stiamo occupando, e mi riferisco soprattutto alla zona perioculare, dottor Luppino, è una zona molto delicata, direi particolarmente sincera nel dichiarare la nostra età. I segni del tempo appesantiscono lo sguardo, ma io non mi riferisco solo alle rughe, ma anche ai cedimenti. Le palpebre, ahimè, dottor Luppino, cascano e poi però abbiamo anche delle variazioni di colore, senza considerare, ma lo faremo nel corso della nostra trasmissione, che sulle palpebre possono manifestarsi eczemi, macchie, infiammazioni, il classico orzaiolo, il calazio, che non sono sinonimi, ne approfitteremo di voi per farci capire, per capire bene la differenza. Allora... Lei, dottor Luppino, mi deve dire, adesso che io guardo, ho davanti a me il dottor Scialdone, lui può guardare me, io posso guardare lui, che cosa devo guardare del dottor Scialdone, che tra l'altro ha gli occhiali, quindi faccio un pochino più fatica, ma adesso se li sta togliendo, quali sono i segnali che devo cogliere riguardo palpebre superiori, inferiori, le sopracciglia o le ciglia? Beh, le palpebre hanno due funzioni particolari, una è quella di protezione meccanica del globo oculare e una di facilitare la permanenza del film lacrimale sulla cornea e la congiuntiva. Queste possono essere sede di parecchie condizioni patologiche, più o meno gravi. Le palpebre, per esempio, sono sede di eczemi e uso della donna che utilizza smalti toccare le palpebre con il bordo dell'unghia e non con il polpastrello. Questo può essere un segno di un eczema incipiente o già di per sé riconoscibile dal dermatologo. E quindi il make-up può essere chiamato in causa nel pervenire degli eczemi. Anche gli edemi, cioè i rigonfiamenti delle palpebre, possono essere dovuti a dermatiti allergici irritativa da contatto, quando è riconosciuta da un esame allergologico conclamato, le punture di insetti possono dare un rigonfiamento delle palpebre, perché le palpebre sono una zona molto delicata, molto sottile. E infine l'herpes, che quando colpisce la zona oculare è da valutare, perché è estremamente importante per i danni alla congiuntiva che ne possono derivare. Dottor Cialdone. Beh, una delle cose poi, da visto che parliamo, Lupino ha parlato di persone di donne giovani, una delle cose che adesso, diciamo, cominciano a dare un po' più di fastidio è la blefarocalasi, no? Quella, che nomone, così. No, beh, quella specie di piega ridondante della palpebra di sopra, che a 20 anni è una caratteristica, diciamo, sono un tipo, sì. Mentre invece a 50 comincia a diventare un problema. Ecco, ma perché si vede, non solamente, non è più solamente un problema estetico, vero? No, in certi casi sicuramente può fare, come dire, una tale pesantezza, un tale ingombro nella apertura e chiusura della palpebra, che può essere anche un fastidio. In effetti, quando ci sono i casi estremi, è riconosciuta anche dal sistema sanitario come un problema, diciamo, parapatologico, e quindi è coperta. E in generale è un problema che da un punto di vista chirurgico è facilmente risolvibile. È uno degli interventi più eseguiti nella chirurgia plastica, diciamo, di tipo estetico barra funzionale. Dottor Cialdone, però con lei guarderemo con attenzione la sclera, la parte bianca dell'occhio, che a volte ha delle piccole sporgenze o non è bianca come uno vorrebbe, magari ci sono delle zone che sembrano un po' virare verso il giallo, o parleremo di occhio rosso, il classico capillare che si rompe, noi diciamo è un colpo di freddo, che come fare, ma guarderemo anche l'iride, la parte colorata dell'occhio. Si dice sempre che gli occhi chiari sono più sensibili degli occhi scuri, e la pupilla, che proprio come l'obiettivo di una macchina fotografica, quante volte abbiamo detto che l'occhio assomiglia ad una macchina fotografica, bene, l'obiettivo è proprio la pupilla, che si dilata o si restringe. Quindi occhio a tutti questi dettagli. Se non avete uno specchio a disposizione, prendetevi il vostro vicino, guardate, no? Vi abbiamo invitato a intervenire in coppia, ma il numero verde rimane lo stesso, 800 24 00 24. I messaggi 349 238 6666. Una mela al giorno. Immergetevi, perché iniziamo una breve lezione di shiatsu, anzi dovrei dire watsu, lo shiatsu in acqua, e lo facciamo col professor Fulvio Palombini, reumatologo, docente in fisioterapia all'Università La Sapienza di Roma, ospedale Sant'Anna. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno a tutti. Molti buongiorno dei nostri ascoltatori avranno già provato lo shiatsu in acqua, quindi il watsu, proprio in spa, nelle piscine termali. Sì, nei centri benessere, va molto di moda. È una tecnica dolce di massaggio, diciamo, deriva dallo shiatsu. Lo shiatsu è una tecnica di shi, dito, atsu, pressione, una tecnica molto profonda di massaggio. Quindi il presupposto è che ci sia un lettino, una superficie solida, perché la pressione possa raggiungere in profondità il corpo. In acqua questo non è possibile, però gli effetti sono comunque molto buoni da un punto di vista muscolare, vascolare. Un buon massaggio, una buona tecnica da provare sicuramente. Lo possiamo provare nei centri benessere e lo raccomandiamo, vero professore? Sì, assolutamente sì. Una tecnica assolutamente da provare, perché è molto rilassante. E soprattutto stimola molto la circolazione, quindi si può usare in casi di crampi notturni, si può usare in caso di agitazione, il muscolo si agita quando siamo stressati, ansiosi, e la pressione seda, calma, più l'effetto dell'acqua. L'acqua è sempre una grande cosa, no? Non l'hanno inventato i greci, i romani, quindi l'acqua è l'acqua. Una grande mamma. Allora, grande mamma. Per chi non può sottoporsi al watsu nelle piscine termali, nei centri benessere, possiamo trasferirci in casa nostra e magari approfittare della vasca da bagno, del bagno serale o mattutino, per sciazzarci un po'. Certo, l'acqua un pochino calda sempre, io consiglio sì la sera sicuramente, ma anche la mattina ci alziamo che il corpo è freddo, quindi immergiamoci un pochino nell'acqua calda, siamo un qualche minuto e poi iniziamo a lavorare soprattutto a premere, soprattutto la parte interna delle gambe per esempio, che è una zona molto vascolarizzata, molto innervata, quindi dolci pressioni sulla parte interna delle gambe e anche sopra le gambe dove c'è il grosso muscolo quadricipite che spesso si contrae, crea grossi problemi anche alla colonna vertebrale. Allora, quanto deve durare, professore, questa leggera minuti, pressione? 2-3 minuti di pressione, 2-3 minuti. Chi può, chi ce la fa, potrebbe anche cercare di premere la pianta del piede. La pianta del piede è una zona meravigliosa, una zona viene considerata un po' il secondo cuore, quindi se, chiaramente non tutti riescono, quando si va a fare wazzo con l'operatore, con il terapeuta, sarà lui a fare le pressioni su questi punti. Diciamo che da soli le zone più importanti, la parte interna delle braccia, si fanno delle pressioni morbide dove c'è un canalettino, si vede un canalettino tra il muscolo bicipite e il tricipite, lì delle pressioni dolci, delicate, ripetute e così anche l'interno delle gambe. E poi non dimentichiamo i piedi, quindi anche per pediluvi. Il piede, guardi, il piede è una superficie meravigliosa su cui si possono fare delle terapie stupende, soprattutto con la pressione. Grazie professor Palombini, proveremo. Buona giornata. Buona giornata a tutti, grazie. Pronto soccorso. Risaliamo dai piedi, che sciazzeremo magari stasera, agli occhi. Mettete davanti ad uno specchio oppure chiedete a chi vi sta vicino di guardarvi gli occhi e negli occhi, dottor Cialdone. Beh, mi domandavo mentre parlava il professor Palombini se c'è lo sciazzo agli occhi, non lo so. Potremmo chiedergli, volevo chiederglielo, ma poi pensavo di andare un po' troppo lontano. Sicuramente io trovo beneficio quando magari ho mal di testa, esatto, a fare delle leggere pressioni sotto proprio. Beh, c'è una tecnica che è diciamo abbastanza promossa, che è il palming, che è quello di quando uno non ne può più, c'ha gli occhi molto stanchi eccetera eccetera, quello di fermarsi un attimo, mettere con molta delicatezza le palme sugli occhi chiusi e senza premere troppo e stare fermi così per un minuto o due. C'è veramente una sensazione di rilassamento notevole. Dottor Lupino, lei l'ha provato? Tutti e due insieme. Tutte e due? Io stavo provandone solo uno, dove che mi sento, perché a volte sentiamo proprio una pressione più ad un occhio che ad un altro, anche se è un segno che non possiamo raccontare, perché adesso non vediamo. No, certo. Ecco, però c'è una cosa che forse vale la pena di mettere in evidenza guardando gli occhi o guardandoci, e cioè l'apertura palpebrale. Non c'è solo la palpebra che cade, ma ci può essere anche l'opposto, cioè uno o ambedue gli occhi che stanno un po' troppo aperti rispetto al solito, come se avessimo paura, ma in modo molto prolungato durante la giornata. Questo, soprattutto nelle persone, diciamo, dai 45-50 su, potrebbe essere un segnale di ipertiroidismo, che è una malattia, diciamo, un problema di nicchia che adesso sta diventando sempre più frequente. Vi rimando agli archivi, al nostro archivio. Alla tiroide l'abbiamo veramente perlustrata in lungo e in largo in diverse puntate e quindi se volete saperne di più il nostro archivio è a vostra disposizione, ma io approfitto di dare subito la linea a Elena che ci chiama da Milano. Buongiorno Elena, benvenuta. Buongiorno a lei, complimenti per tutti voi. Grazie. Io ho fatto la cataratta un mese fa. Sì. E ho la sensazione, nonostante loro dicano tutto a posto, tutto perfetto, sto cristallino mi dà un colore azzurro e mi dà questa sensazione estremamente sgradevole. Non sono assolutamente a posto e niente, volevo sentire ma scusi, quando lei parla di azzurrino, lei vede delle sfumature azzurrine oppure vede la sclera che le sembra più azzurrina? No, per me è il cristallino. Io questo cristallino che ho, se chiudo l'altro occhio vedo normale, se chiudo il normale e lascio aperto dove mi ha messo il cristallino ho questo tipo neon che mi dà un grosso fastidio, per cui dottor Scialdone, andrà a posto. Elena ha detto, loro dicono, e lei che cosa dice, dottor Scialdone? Ma diciamo, da una sensazione così non è facilissimo, ovviamente, però posto che non è un problema di, come dire, di estetica o di vedersi, ma di vedere, cioè sì. La signora, la nostra ascoltatrice, vede in modo diverso. Innanzitutto teniamo conto che l'occhio operato avrà un colore delle immagini diverso dall'altro, perché se c'è una cataratta nell'occhio non operato, le immagini o il mondo sembrerà tendenzialmente più marrone, giallastro, rispetto all'occhio operato, che dovrebbe sembrare più blu. Sì. L'abbagliamento alla luce è un fenomeno che in alcuni casi può verificarsi nelle prime settimane, che teoricamente dovrebbe effettivamente andare. Ora, più di così, francamente, è difficile. Per telefono poter... difficile. Esattamente. Allora, io invece tornerei con il dottor Lupino ad occuparci delle nostre palpebre. Tra l'altro, la palpebra superiore, dottor Lupino, non risponda perché poi risponderà dopo, ha una caratteristica molto importante. Allora, il primo ascoltatore che invierà la caratteristica giusta, la palpebra è la parte del superiore, la parte del corpo più a può mettere la risposta, speriamo sia quella giusta, e inviarla a essere benessere@radio24.it. Il primo a rispondere giusto e soprattutto a raggiungere il nostro indirizzo di posta elettronica riceverà a casa il nostro consiglio di lettura. Oggi è un libro, porta nelle vostre case un libro dal titolo Come stai? È un libro molto interessante. Per riceverlo oggi dovete inviare un'email rapidi ma con la risposta al nostro indovinello. Qual è la caratteristica della palpebra superiore, la parte del corpo più... la mail all'indirizzo essere benessere@radio24.it con la risposta, il titolo del libro se ve lo ricordate, e mi raccomando i numeri di telefono e i vostri recapiti. In collaborazione con IBS.it. Dottor Lupino, lei ci risponderà a questo indovinello in chiusura di trasmissione, ma intanto molti ascoltatori ci stanno già scrivendo che hanno sulle palpebre delle macchiette rosse che si squamano, e uno in particolare, Alba, mi scrive: ho paura a mettere creme sulle palpebre perché poi bruciano. Beh, che si debba avere paura proprio no, che si debba essere però rigorosi nel tipo di make-up o di creme che si usa, quello sì, è giusto, perché la palpebra nel suo contorno e quindi il globo oculare è una zona estremamente sensibile, ed esistono per questo da parte dell'industria la formulazione di diversi tipi di sostanze, quindi useremo delle emulsioni anziché delle pomate, che hanno la caratteristica di chiudere i pori e quindi rendere meno... più aggredibile da tanti fattori le palpebre stesse, e quello che ci chiede l'ascoltatrice è forse riconducibile a quello di cui parlavamo prima, la blefarite di tipo palpebrale, che in questo periodo sembra avere il sopravvento su chi ha questo particolare tipo di condizione, che è la dermatite seborroica. Andiamo alle ciglia, dottor Lupino, danno profondità allo sguardo ma sanno dare anche tanti problemi. Perché ci sono delle, a volte ci sembrano meno folte, ha delle chiazzette di ciglia che mancano. In questo caso che cosa devo pensare, dottore? Le ciglia sono sede anche di particolari condizioni patologiche, sia di tipo autoimmunitario come l'alopecia areata universale, che causa una perdita anche totale della presenza delle ciglia, ma anche di tipo infettivo, parassitario. Le piattole, ad esempio, si fissano alle ciglia, e quindi esiste la necessità di asportarle con dei pettini molto sottili o con unguenti messi sulla rima palpebrale, perché devono essere non più sede di alterazione stessa. A dire, ma è frequente questo? Io non l'avevo mai sentito, questo delle piattole sulle ciglia, mi fa quasi un po' paura. Spesso si fa la diagnosi di pericolosi guardando proprio le ciglia dei soggetti, quando esiste un prurito incessante, soprattutto durante la notte, nel momento in cui cui questi animaletti così vivaci prendono il sopravvento sulle nostre difese, allora si pone l'attenzione proprio sulle sopracciglia o anche su altre zone che possono essere anche per esempio il pube. Queste sono delle zone preferite dalle Hai capito. Stesse. Dottor Cialdone, qualche volta però al mattino le ciglia sono un po' appiccicate, tra le ciglia notiamo delle crosticine, qualcuno le chiama caccole, lo stanno scrivendo, schifezzine varie, no? Ognuno le chiama a modo suo. Dottor Cialdone, lei come le chiama? Soprattutto sono sempre segno di qualche cosa, di qualche infiammazione, può essere il segnale di una congiuntivite? Può essere segnale sicuramente di una irritazione che è di tipo spesso cronico, soprattutto se è in ambedue gli occhi. Spesso le persone sono un po', come dire, preoccupate da questo tipo di fenomeno, che in realtà la maggioranza dei casi è un fenomeno abbastanza banale e che dipende, la maggioranza dei casi sono persone, diciamo, anziane, e quindi da una modificazione delle lacrime, il mitico occhio secco, l'occhio si irrita, quindi un po' di pulizia, soprattutto al mattino, acqua e sapone, acqua e bicarbonato, perché il bicarbonato toglie i grassi, senza preoccuparsi troppo di farsi, come dire, grandi fantasie di tipo patologico, perché spesso sono cose passeggere. Fra l'altro, io ho sentito parlare prima di make up da Luppino, quindi vorrei dare un consiglio alle, che probabilmente sarà già stato messo in opera dalla maggioranza delle ascoltatrici che portano lenti a contatto. Prima lenti a contatto, poi make up. E non viceversa. Altrimenti si rovina il trucco. Uno sta 20 minuti e poi con la lente a contatto prima ci vedo bene e secondo poi mi trucco. Però come bravo, eh? Beh, l'ho messo tutte le giorni. Come mai è da anni che il mio occhio destro è leggermente rosso e sporadicamente si forma la cacchina? Vede che ognuno la chiama un po' come vuole. Non l'ho mai fatto vedere a fondo, anche se ho fatto una visita e mi hanno dato occhiali da lettura. Cosa può essere questa cacchina con l'occhio rosso? Però se un occhio solo, consiglierei di far controllare le vie lacrimali, perché potrebbe avere una stenosi o un restringimento dei puntini lacrimali, cioè delle vie di scarico. Se si sono leggermente ristretti per un motivo infiammatorio che può esserci stato, le lacrime scorrono peggio e quindi invece che, come dire, un fiume o un torrente, abbiamo uno stagno sulla superficie dell'occhio, quindi è più probabile che ci siano irritazioni. Ecco, siamo tornati insieme, oggi ci occupiamo di occhi, non di come vedono, a questo abbiamo dedicato numerose puntate, vi rimando al nostro archivio, ma come li vediamo noi. Ma prima c'è una ricerca interessante di cui voglio parlarvi, che apre nuove prospettive per il controllo delle crisi epilettiche che non rispondono ai farmaci. In linea con noi abbiamo la professoressa Anna Maria Vezzani, che dirige il laboratorio di neurologia sperimentale del Mario Negri, che ha condotto lo studio. Buongiorno professoressa. Buongiorno, buongiorno. Lo studio è stato condotto anche in collaborazione con il San Raffaele, giusto? Sì, allora, praticamente è uno studio che ha permesso di mettere in evidenza un nuovo meccanismo infiammatorio che è importante per la comparsa e la ricorrenza delle crisi epilettiche, anche crisi che sono resistenti ai farmaci anticonvulsivanti disponibili, ed è uno studio che è stato fatto in collaborazione con l'Istituto di Ricerche San Raffaele, l'Università di Insubria e l'Università di Amsterdam. Diciamo che l'interesse di questo studio è che, interrompendo questi specifici meccanismi infiammatori con dei composti particolari, siamo stati in grado di ridurre le crisi resistenti ai farmaci in maniera significativa. Professoressa, noi stiamo parlando di ricerca di base, quindi questo vuol dire che occorrerà tempo perché la cura sia disponibile per il paziente, ma la vostra ricerca promette sviluppi molto interessanti. Sì, confermo quello che lei ha appena detto, sono dati, modelli sperimentali, e sono molto incoraggianti perché aprono la prospettiva di utilizzare dei nuovi farmaci per il controllo delle crisi farmacoresistenti, però la strada è ancora lunga, ci sono ancora tanti studi da fare, non solo di efficacia ma anche di possibile tossicità, e quindi è ancora prematuro parlare di nuovi farmaci, ma sicuramente... Infatti lei ci ha parlato di composti. Sì, esatto, sono dei composti che sono stati studiati solo a livello sperimentale e aprono nuove speranze, nuove prospettive di trattamento, anche se sono da intendere come prospettive future, non nell'immediato. Insomma, state lavorando per noi. sì, spero che riusciremo a fare qualche cosa di veramente utile per le persone che soffrono di questa malattia. In bocca al lupo, grazie professoressa, mille. Buona giornata. Grazie anche a lei, grazie. C'è una strana espressione nei tuoi occhi, vogliono dirmi che non mi ami più, vogliono dirmi che non mi vuoi più bene, mi fanno già capire che io ti perderò. Quanto parlano questi occhi? Scriveva San Girolamo, il volto è lo specchio della mente, gli occhi, senza bisogno di parlare, confessano i segreti del nostro cuore. In linea con noi abbiamo la dottoressa Patrizia Marzola, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Psicologa con cui cerchiamo di scoprire quello che gli occhi non vorremmo dicessero. Dottoressa, tante volte gli occhi ci tradiscono e all'osservatore attento uno sguardo dice più di mille parole. Sì, esatto, proprio perché è veloce, rapido e immediato. Ad esempio può esprimere imbarazzo. Lo sguardo, perché quando il nostro interlocutore vede che noi distogliamo lo sguardo dai suoi occhi, quindi lo abbassiamo oppure spostiamo la testa a destra, a sinistra, ecco che noi manifestiamo subito il nostro imbarazzo. Mentre se proprio ci guardiamo negli occhi, proprio senza, no, in modo diretto, come sta facendo adesso il dottor Scialdone nei miei confronti, vuol dire sicurezza e determinazione. Sì, esatto, vede? Proprio perché esatto, sì, si mantiene vivo lo sguardo, quindi è viva l'attenzione, quindi lo sguardo comunica proprio questo. E lo sguardo può anche, diciamo, manifestare, mostrare la menzogna. Oppure possiamo... Ecco, quello ci piacerebbe, ecco, quello, sì. Quello lì sì che ci piacerebbe saperlo e scoprirlo, eh? Infatti uno sì. Dice, ma uno sguardo, insomma, non mi fido, proprio perché tante volte lo sguardo, gli occhi hanno un... mandano, no? Ci guardano in maniera quasi contraddittoria rispetto alle parole. Il complimento detto con gli occhi un po', no? Di sbieco. Sì. Infatti i ricercatori in questo settore hanno proprio evidenziato che la menzogna si rivela proprio nell'incongruenza tra le parole e il modo in cui noi usiamo il linguaggio del corpo. Quindi meglio dire, se dobbiamo dire una bugia, diciamola ad occhi chiusi. Sì. Senta, gli occhi però sono anche, insomma, con gli occhi si seduce. E anche ci sono delle modificazioni, sì. Vediamo se il dottor Scialdone ci dà una mano. Le pupille, durante quando cerchiamo di sedurre l'altro, il nostro amato, si modificano. Dicono, sì, dicono che si dilatino le pupille. Quindi, non l'ho mai viste dilatate io. Ma perché lei ha l'occhio clinico, no, magari guarda l'occhio rosso e non guarda la pupilla che questo si dilata. Invece la dottoressa Marzola conferma, vero? Sì, assolutamente, perché ogni volta che noi mostriamo interesse il nostro sguardo si appoggia un po' più negli occhi dell'altro. Giustamente, come dice il dottore, si fa fatica a vedere questo tipo di movimento. Diciamo che l'occhio della persona, la persona, diciamo, che riceve questo sguardo da seduttore, quindi questo sguardo seduttivo, lo sente, lo avverte, proprio perché lo sente su di sé in modo più... Sì, quindi noi potremmo dire, non mentire, ti piaccio, noto che c'hai la pupilla un po' dilatata. Esatto. Potremmo dire così. Ma non solo quello, ma anche come diceva prima la dottoressa, lo sguardo maggiormente persistente sulla persona che indica attenzione, no? Sì, però a volte è un po' fastidioso, no? Ci crea un po' di imbarazzo. Vabbè. Certo, soprattutto quando è duro. Però io suggerisco sempre di alleggerire, ammorbidire lo sguardo alzando appena un po' gli angoli delle labbra. In questo modo si ha un piccolo sorriso e lo sguardo si ammorbidisce subito. Ecco, questo è un buon consiglio. Intanto noi abbiamo parlato di sguardo, ma è ovvio che tutti questi gesti, i movimenti dello sguardo, assumono un significato solo se inserito nel contesto specifico. C'è un libro che la dottoressa Marzola mi consiglia. Vogliamo consigliarlo anche ai nostri ascoltatori, perché è un testo utile, completo. Sì, soprattutto facile e carino da leggere. Si chiama Giù la maschera, edizione Giunti, di Ekman e Friesen. che sono proprio due studiosi che hanno dedicato al linguaggio del corpo, possiamo dire così, e soprattutto dello sguardo, del viso, esatto. Molto, molto, molta attenzione. Intanto un sorriso a lei, grazie dottoressa per essere venuta grazie. A trovarci. Grazie a lei e a voi, arrivederci. Dottor Lupino. Eccolo, l'abbiamo lasciato un po' in disparte. Io non vi posso guardare negli occhi. Lei non ci può guardare, infatti è più facile parlare quando si ha l'interlocutore davanti, almeno questo succede a me in radio. Ma dottor Lupino, approfitto di lei per rispondere, anzi della sua presenza tra noi, come mi corregge giustamente una mia amata ascoltatrice, che ringrazio, per chiederle, per queste palpebre che cadono, si può fare qualcosa senza fare proprio l'intervento chirurgico? Ci sono dei trattamenti meno invasivi? Ahimè, in senso lato no, perché la palpebra superiore risente molto di più di quella inferiore della forza di gravità e quindi l'unico intervento possibile per risollevarla un po' è quello chirurgico. Però una buona idratazione, un buon massaggio continuo, la fortuna di avere dei genitori che non hanno avuto il problema della blefarocalasi certamente ci può aiutare. Ma sai che uno i genitori non se li può scegliere, se li trova. Quello lì. Per questo parlavo di fortuna. Jonathan ci chiama da Palermo, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'opportunità. Cosa ci racconta Jonathan? Ma vedo sempre gli occhi stupendi della mia compagna, ma uno dei due lacrima spesso. Però durante il giorno, non durante la notte. Sì. Volevo sapere se c'era... Anche perché lei sarà innamorato, ma mica la veglia di notte, no? Ma ogni tanto capita, perché lei dorme immediatamente, io invece ci metto un po'. Dottor Scialdone, un occhio che lacrima. È innamorata, però... È innamorata, però bisogna dipendere da quale occhio poi. No, se è una persona giovane, evidentemente forse c'è da riallacciarsi a questo discorso che si faceva prima su un'indagine sul funzionamento delle vie lacrimali, che è forse una delle cose da più probabili. Oppure piccole cose che possono essere guardate, se la signora fosse per ipotesi più allergica agli acari e dorme dalla parte dell'occhio che si gonfia e lacrima, potrebbe essere un'altra alternativa. Insomma, piccole cose da vedere, non ci può essere una risposta. Io indagherei però più le vie lacrimali. Noi tra poco indagheremo col dottor Scialdone anche tutti quei problemi che possiamo notare sulla sclera, la parte bianca. Abbiamo detto che ci possono essere delle colorazioni che si discostano dal bianco, l'occhio giallino, rosso, e in questo caso parleremo di occhio secco, ma anche proprio delle vere e proprie escrescenze. Sì. Siamo tornati con Antonio D'Alessandri. Antonio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per avermi richiamato. Io ho un bambino di 3 mesi, sì? Da quando è nato ha un occhio che continua tutti i giorni a essere pieno di escrescenze che fuoriescono dall'occhio stesso. Sì. E oculisti e pediatri mi hanno consigliato di utilizzare o un collirio con antibiotico, il Tobral, qualcun altro mi ha detto di pulire l'occhio con acqua calda o con camomilla, perché può essere dovuto a una presenza di eccessivo grasso. Sì. E altri mi hanno detto che invece è dovuto al canale lacrimale che non è ancora sviluppato e che quindi per ora sarà così. Dottor Scialdone, lei che cosa direbbe ad Antonio? Quale buona di queste? La terza. Buona la terza, Antonio, e poi si mette a posto da si solo. Allora, se non si mette a posto nel giro, dunque, prima di tutto penso che dovrebbero averle consigliato di fare dei massaggini, perché il massaggino spreme un pochino sia il sacco lacrimale, cosa quindi evita i ristagni, sì, e quindi possibili reinfezioni. Va bene l'antibiotico, anche se ovviamente non risolve il problema ma evita le sovrainfezioni. Se nel giro di un mese o due, portandola a fare, non si risolve, e allora si fa un sondaggino con un piccolo specillo e quella piccola barriera che rimane all'apertura viene eliminata. Dottor Lupino, prima di parlare del colore della nostra sclera, lungo il bordo delle ciglia, no? E delle sopracciglia, a volte si forma come una piccola pallina o un rigonfiamento, noi diciamo o l'orzaiolo. Si sente parlare anche di calazio e le nonne raccomandavano di guardare nella bottiglia nell'olio. Nell'olio, si ricorda anche lei, dottor Cerdoni? Non è che abbiamo avuto la stessa nonna. Anch'io lo raccomando. No. Dottor Lupino, che cos'è calazio, orzaiolo? Che cosa sono e come, qual è la cura giusta? Allora, l'orzaiolo è un'infezione acuta del bulbo ciliare, è una tumefazione molto dolorosa che va incontro poi a suppurazione e che bisogna drenare subito per facilitare la guarigione. Il calazio è una ritenzione invece del secreto della ghiandola di Meibomio, che è una ghiandola che partecipa con la sua secrezione interna a fluidificare il film lacrimale e quindi a umettare meglio le strutture oculari e dà origine anch'esso a un granuloma infiammatorio, ecco perché si usa l'impacco caldo. Perché prima di correggere il processo con un curettage, quindi dal punto di vista chirurgico, sarebbe bene sciogliere questo accumulo e favorire il suo drenaggio, che non sempre è possibile, per cui in questo caso il dottor Scialdone ci viene d'aiuto. Ecco, però va bene quindi qualche impacchino caldo. Sì, prima nelle prime fasi. Nelle prime fasi, vedi, il caldo cura tante volte. Dottor Scialdone, andiamo a questo colore della nostra sclera che preoccupa tanti ma nostri ascoltatori. Ma io vorrei mettere in evidenza due o tre cosette rapidamente. Uno, persone diciamo dai 50 anni in su che possono avere delle macchiette gialle nella parte interna ed esterna rispetto all'iride, cioè alla parte colorata. La macchietta gialla è soltanto un segno del tempo, quindi nessuna Siamo preoccupazione tranquilli. In generale. Anche se però ove questa macchietta tendesse ad allargarsi, bisogna andare a farsi vedere, perché a volte diciamo le macchiette del tempo si possono confondere con neoplasie iniziali. Quindi teniamola sotto controllo. Soltanto se sotto controllo. Allarga si fa un saltino dall'oculista. Esattamente. Poi. La seconda cosa da mettere in evidenza, di cui alcuni sono preoccupati, è un anello biancastro alla periferia del colorato dell'iride. Anche quello può essere una condizione, si chiama gerontoxon, può essere una condizione anche quella degli anni che passano, spesso è familiare e talora anche nelle persone giovani. Terza cosa è l'opterigio. Sì, questo che è l'escrescenzina. Che è l'escrescenzina che cresce, è una piega della congiuntiva, cioè della parte superficiale, che cresce sull'iride, sulla cornea. Ed è appannaggio soprattutto oggi dei nostri connazionali o ospiti non italiani, cioè degli stranieri. Molto spesso i sudamericani o i filippini mostrano questo tipo di escrescenza, che va operato in tempo perché tendendo a crescere può anche dare danni alla vista se si lascia troppo tempo lì. Dottor Lupino, chiudiamo proprio con una battuta su queste borse, le occhiaie, c'è qualche cosa da fare, qualche massaggio, mi chiedono alcuni, una posizione da tenere durante la notte, il cuscino alto, basso, interventi poco invasivi, dottore? Croce e delizia delle donne e degli uomini. Allora, per quanto riguarda le occhiaie, esse sono causate da vari fattori: un rallentamento della circolazione nella zona, la persistenza di una superficie cutanea molto sottile che favorisce la visione del gruppo venoso all'interno, e la pigmentazione perché c'è un rallentamento della circolazione e quindi la fuoriuscita di globuli rossi all'esterno che fanno un vero e proprio pigmento, come se fosse un tatuaggio. Sì. Oggi si può ridurre efficacemente utilizzando delle creme molto particolari che sfruttano l'azione sia di stabilizzanti in superfici quali il retinolo e anche della vitamina K1, che ha un'azione antinfiammatoria. Quindi sbiancano. Si può avere l'effetto di un buon sbiancamento dopo molti mesi, però questo è giusto ricordarlo. Certo. Per quanto riguarda le borse, oggi si può anche optare per non andare incontro a un intervento chirurgico più drastico. Ci sono delle ottime tecniche laser con dei laser ablativi, quali ad esempio il laser ad erbio, che hanno la capacità di ridurre la quantità di acqua della struttura adiposa che c'è al di sotto della pelle, quindi di, una volta che viene stirata la pelle, spingere verso dentro questa struttura e renderla meno evidente per parecchi anni. Ma sarà una cosa da rifare dopo un po', immagino. Eccola, ormai si fa dopo 4-5 anni. Dottor Lupino, lei cucina? Io cucino qualche volta. Va bene, sono bravo a friggere. Allora, credo. Dottor Lupino, allora si fermi con noi. Il dottor Scialdone cucina, ma soprattutto in linea con noi abbiamo Fabio Campoli. Bentornato. Buongiorno a voi, buongiorno Nicoletta, buongiorno ai radioascoltatori. Gli ascoltatori sicuramente lo conoscono per Rai 1, è uno chef di grande fama e presidente del Circolo dei Buongustai. Insieme a Fabio Campo le abbiamo pensato in due minuti di darvi dei consigli per un buon modo per resistere, affrontare questa crisi e anche imparare un po' a ritornare al riciclo, quello che facevano le nostre mamme e le nostre nonne. Quindi abbiamo pensato lunedì giorno di riciclo. Per chi ha avuto amici, ospiti a casa, ha fatto il pranzo della domenica, è facile trovarsi con qualche cosa che è avanzato. Non buttatelo, lo recuperiamo in modo intelligente con i suggerimenti di Fabio. Allora, signor Campoli, se ho avanzato delle verdure, che faccio? Beh, le verdure io si possono... Allora, c'è una premessa a monte da fare, che il buon riciclo... bisogna avere un prodotto, la premessa è che il prodotto deve essere sano e conservato bene, certo. Quindi attenzione a come raffreddiamo i prodotti e come li conserviamo in frigorifero. A quel momento le fantasie sono tante, perché ad esempio con verdure, se ci rimangono verdure e del pollo arrosto, io proporrei di fare un riso pilaf, scegliere un riso pilaf molto profumato con del brodo vegetale e cuocerlo a parte, quindi brodo e riso, poi saltare in padella le verdurine con un pochino di porro, scottate velocemente le verdurine di stagione, adesso finisce il radicchio, ci sono asparagi, c'è questa primavera che arriva, le erbe fresche del momento, quindi un riso caldo con pollo, arrosto e verdurine, sicuramente questo va benissimo, con le verdure e anche le sformate di pasta si possono fare, perché no, riutilizzando anche le paste, voglio dire, se ci rimane una pasta, io sì. Ho pensato così, una pasta al pomodoro, sì. Che dire, io direi che una frittata di pasta è eccezionale, con la pasta rimasta deve essere assolutamente fredda, cioè uno spaghetto al pomodoro freddo del giorno prima e conservato in frigorifero è perfetto. È perfetto, si fa una frittata, è un'insalatina e siamo a posto. Un'insalatina, perché no? Allora io ringrazio lo chef Fabio Campoli, vi mettiamo le sue ricette per sua gentile concessione, così si dice, sulla pagina di Essere Benessere, così da idea nasce idea. Ringrazio il dottor Lupino, il dottor Scialdone, ringrazio voi che ci avete seguite, siete intervenute, ma prima la risposta, dottor Lupino, siamo in super chiusura, qual è la caratteristica della pelle della palpebra superiore, che cos'è che la rende diversa da tutto il resto del corpo? La sua sottigliezza, la sua... parte del corpo più sottile. Ecco, voilà la risposta. Noi ci sentiamo domani come sempre dopo il GR delle 11. Buonissima giornata.